No, no, no, ma qua se non hai un attivo bisogna liberare il canale, ma questi sono matti, cioè a parte che tutti questi Alfa Tango alla fine cioè, fanno finta di essere radioattori con nominativi inventati su frequenze pirata, perché alla fine dopo i 40 sono tutte frequenze pirata, quindi sono dei piratoni, cioè se non sei iscritto lì non puoi modulare, se non hai il nominativo non puoi modulare, questo è veramente scandaloso perché lì si fanno figli e figliastri, non so se avevi sentito la storia, io lo stavo carellando, l'ho sentito per puro caso e in effetti non sono cose belle perché cioè, se la passione di radio ti dirò di più, non ci sono almeno nominativi o gruppi Alfa Tango, se io ti chiamo come Marco e ti saluto, ti chiedo un controllo, ti contraccambio il controllo, zona, VAT, antenna, non mi sembra fare giusto fare figli e figliastri, se no che passione è, vai Tino. Ragione, adesso anche questo fatto non mi sbaglio, nel 27 555, beh non ricordo, sono ancora se così, e devi iscriverti a avere un nome attivo, ma se ne parlano tutte quante col paese, va bene così, io sinceramente di iscrivermi in questo, che poi sì vabbè ti danno un nome attivo, l'ho inventato credo, non so, vogliono fare, come hai detto tu, come radioattori, ma ti pare che se uno voleva essere radioattore non lo faceva tutti gli effetti. No, ma infatti, cioè, se vogliono avere l'esclusività di certe frequenze, ripeto, purtroppo che c'è pirata, dove vado anch'io, ovvio, è ovvio che ci vado anch'io, è ovvio, anzi farei molto di più, ma... cosa volevo dire? Se tutti devono fare i finti radiatori, se non è il nominativo non può entrare qui, allora che se ne vadano in mando amatoriale con la patente se ce l'hanno, e così è fare davvero figli e figliastri. Vabbè, e ascolta, è come questi di Radio Montana, si inventano nominativi, frequenze, non dico esclusive, ma quali, che senti sul canale si buriano. Guarda, leggendo il forum ne leggi di tutti i colori, tutti si inventano nomi attivi, associazioni che poi valgono solo sulla carta perché non sono riconosciute. Babù. Vediamo almeno se c'è qualche cambiamento così. Cosa dica? Sarà che facendo la doccia mi entra attacco nell'orecchio, ma io differenze sostanziali non ne sento, provo per un passaggio lungo, vediamo. No, vabbè, vedo il bip qua, non so se sta andando o meno, così è pigiato, vediamo. Sì, c'è, è molto acuto. Adesso invece non c'è, guarda. No. Ah, quando premi, non so se tu lo senti, ma sicuramente sì, sento un rumore metallico. Proprio tac, particolare. Sì, lo sento anch'io, lo sento sguiccare, sguic fa una cosa del genere, ma vabbè, non fa niente. Come segnale questa radio? Vediamo se riesco a... Che colore è la tenina e fa, guardate qua, se riesco a alzare, ecco qua, così forse è aumentato un pochino o va in saturazione? Un pochino. Poi qua i segnali sono ambigui, qua l'avevamo appurato con te, allora questo Smith è strano, tipo quelli bassi in baramobile segna 6-7 a tutti, attaccano e il segnale non cambia, cioè, nonostante sia lancetta è ambiguo, vabbè tu sei 8 e mezzo adesso che hai toccato qualcosa, però non fa testo, questo è secco di un Santiago, dovrebbe essere 9 e quindi poco più di 9 nell'ultimo passaggio. Sì, vabbè, l'importante è che non sia saturo la radio, perché sennò posso ancora, perché questo è stato toccato di fatti interni, quindi posso aumentare, ma se va in saturazione non mi interessa. Si nota già però, Tino, si nota. Ok, abbassiamo un altro po', adesso l'ho abbassato, guarda se va. Così sembra già migliore, sì. Ah, cioè sono i watt sui dell'apparato, naturali? Sì, guarda, adesso faccio la prova di abbassarli tutti, guarda. Poi mi dici come è meglio. Così, hola, sono a 0 watt. Così sono a 1 con pic di modulazione a 4,5. Così sono con 5 watt con picchi di modulazione a 9, così siamo da Nove a sono 9.30 qua in picchi volazione, quindi non so quanti fatti stai erogando, però posso andare anche oltre solo per la saturazione. No, guarda, 5 va ancora bene, stiamo notando addirittura 0 watt, che poi magari c'era un sonno, la modulazione era spettacolare. E lo stesso anche quando usavi 1-2 watt di portante muta. Comunque diciamo, ma quello lì, una curiosità, cosa montava? Due finali, per caso montava i 1969 ancora, o cosa montava? Guarda, non te lo so dire, perché aspetta che abbassiamo, forse così è migliore, guarda, non te lo so dire perché non l'ha fatto Fabrizio questo qua, era un apparato poverino buttato in una cantina e me l'ha riportato allo stato quasi naturale. Guarda un po', Marco, se la lavorazione ha cambiato, se è migliorato o meno, così sono con 5 watt. Sì, va bene, con 5 va bene. Prima, qual era il passaggio della saturazione? Quanti erano? Una decina o meno? Forse di più, sarà intorno ai 15-20 watt. Ah, vabbè, diciamo che per essere in AM è tirato, ecco perché satura. Se usi magari i suoi, anche quelli di fabbrica, magari erano, adesso non mi ricordo se ne aveva 10 in AM Lincoln, non me lo ricordo proprio. Poi vabbè, invece i moderni apparati di bello hanno i MOSFET che, bene o male, se sono fatti per i 10-12 watt in AM li danno tutti, ma senza saturare. Anche lì li puoi tirare il collo, naturalmente in AM è sempre più critico. Invece in FM vedi, non c'è la saturazione. Anche tirando un pochino il collo l'apparato, ho notato che in FM non so perché, deve essere legato alla AM, io non mi intendo Tino, quindi. Però l'FM è bella per quello, puoi pompare di più, cioè se con 20 in AM saturi, in FM non satura, almeno così era con tutti gli apparati provati. Sì, è vero. Guarda, adesso stavo provando il RIT e ti dirò la verità, ti ho portato leggermente verso il meno e hai una radio bella chiara, se invece non sono a mezzogiorno è sempre chiara, però ti cambia la modulazione, la tecnica di voce, così sembra più naturale, ecco. Ehi, a RIT sarebbe lo spostamento, però sì che sia anche non ben centrata questa, non saprei, questa d'altronde non ha nemmeno bande laterali, non me ne accorgo. Indica la frequenza anche qui, però non è un frequenzimetro, è solo un indicatore di frequenza come può essere quello di canali, in realtà non sai se sei veramente spostato. K. Bien. Prova andare in FM, ce n'ha quello da fare. Seia, proviamo un po'. Tino, conta che io ci avrò 3 watt e mezzo, col filtro sono 2,5, poi 50 metri, ci avrò in antenna 2 watt se mi va bene. Proviamo, dai. Ma infatti qua non stai arrivando tantissimo, sei, però qua ti dicevo con Santiago 5, magari con un'altra radio vai a 8-9, non lo so. Seia. Sì, io guarda che sono con il minimo sindacale, sono nudo e crudo, come la serie TV. Prova in FM, dai. Ok. Prova, testo 1, 2, 3, prova. La tua ascolto c'è anche in FM, però non mi sento quasi. Vedi un po' se mi copi, 1, 2, 3, prova, sperando non ci sia propagazione, se no mi coprono. Oh, non lo so, io forse ci sono, ma non ti dicevo bene qua. Eia, riproviamo, 1, 2, 3, prova. Tu arrivi magnificamente, la radio è non spettacolare, di più. Ti dirò che a me sembra come fedeltà superiore alla M. Ma io guarda, invece non riesco a ascoltarti bene, ti ho ascoltato in FM, addirittura col RIT tutto spostato sulla destra. Sicuramente c'è qualcosa che non va bene nella mia, Un macello, adesso va bene, non ho niente di attaccato, è tutto tolto qua. Se no avrei fatto delle prove. Eia, quella è una cosa che mi fa anche col 3009, però lo sai, devo spostare il clarifier tutto a sinistra per riuscire a copiare bene le persone in FM. È una caratteristica di tutti i 3009 o simili che ho avuto, quelli più moderni e non quelli antichi. Quelli antichi andavano già meglio. K. Passa in AM, passa. Eccomi qua. Allora, ti spiego cosa è successo a me. Quando sono dovuto andare in AM e il Ritter ho dovuto spostare tutto sulla destra. Riuscivo a ascoltarti magnificamente, mentre invece se mettevo in FM vorresti proprio sentivo come c'era QRM e basta, la del radio tra nientava. Io so, troppi pochi watt qua. D'altronde io quando attacco l'ineretto di 50 che me ne dà giù, reali su con la perdita del cavo, te l'ho detto, ce lo dico sempre a tutti, ne arriveranno 35 in antenna, poi con quel giunto il barilotto che ho dovuto mettere, in realtà io in antenna è come che avessi 30-35 watt, quindi non uso mai potenze spropositate, oggi invece sarò con, ti ho detto, 2 watt in antenna, se non 1,5 addirittura, perciò arrivo basso. Oggi sono proprio ai minimi termini, nel vero senso della parola. Sì, ma non c'è problema, è che sicuramente sono io che non riesco a ascoltare con questa radio in FM, vabbè, non fa niente. Ecco qua, forse va bene così il fatto di questa radio, perché mi dà un picco di modulazione appena appena, non eccessivo, però magari se aumento la saturazione, lasciamo così. Ecco. Comunque devi sentire la differenza a parità di volume, la differenza tra la modulazione tua in AM e quella in FM. In FM era più calda, più piena, ma una cosa spettacolare. E così sento molte modulazioni di gente dell'Europa, da tutta Europa. In FM hanno queste modulazioni che sono un bijou. Ecco perché insistevo per modulare più in FM tempo fa, però nessuno ne vuole sentire, allora pazienza. Aspetta, provo a fare una prova con l'altra radio, cambio il radio, prendo la 525, vediamo se possiamo fare quella prova lì. Ah, vabbè, togliamoci il dubbio, dai. Io questa forse l'avevo regolata col menu di servizio, ma non mi ricordo su questa radio, perché appena esce dalla scatola esce talmente basso in FM che non mi sentono basso, mi dicono aumenta, allora, però non sono sicuro, perché ne ho avuti talmente tanti i baracchini e poi sono simili che non mi ricordo dove l'ho fatta questa operazione, dove non l'ho fatta, forse con tutti l'ho fatta, però così a mano libera è un po' un rischio, perché puoi aumentarla troppo e non va bene. Ho capito. Allora qua sono con l'altra radio, sempre il più 5, però con l'altra radio, sempre il watt dell'apparato, senza amplificatore niente. Sì, proviamo a switchare in FM. Sì, prova in FM, vediamo se ti ascolto qua. Cappatino, allora io sto tenendo il mic naturalmente nella stessa posizione di prima, sono un po' come di lato, di tre quarti per ridurre l'effetto sputazzo, vedi un po' come i cuppi, stesso volume di modulazione. No, qua è perfetta, io adesso sicuramente ho abbassato il segnale se non sbaglio, perché qua devo alzare i watt, ma non li tocco, già va bene così. Mi dovresti sentire comunque. Qua è perfetta la tua modulazione, qua ti sento benissimo. Sicuramente ha il problema il president. Allora sì, rispetto all'altra radio, qua c'è una netta differenza, qua è leggermente un po' più bassina in FM, mentre l'altro in FM senza toccare il volume mio, era spettacolare, qua più bassina. E una domanda, quella radio lì l'avevi presa nuova, gliel'avevano fatta l'apertura dell'FM oppure no? Allora, questa radio, Marco, l'avevo presa da Gian Maria, che effettivamente lui l'ha comprata nuova, non le è piaciuto perché aveva il display arancione e i canali verdi, quindi l'ha usata poco e niente, l'ha riconservata nell'armoire e poi me l'ha venduta a me. Io l'avevo pagata 150 euro questa radio, ma era da vetrina proprio nuova, quindi non hanno fatto niente. Sì. Allora sì, probabilmente lui come l'ha presa l'ha lasciata originale. Lì c'è un trimmer minuscolo come tutti i trimmer di quelle radio, dove c'è la deviazione FM, io gliel'avevo fatta. Naturalmente avendo lo strumento io consiglierei di metterla a 2,1 kHz, massimo 2,2, fischiando. Massimo 2.2 kHz, perché a dirla tutta noi non abbiamo l'FM tipo quella amatoriale, che è fino a 5 kHz, qua siamo un po' più stretti, è come dire il PMR, è come un FM stretta, no? E se raggiungi quei livelli, anche a orecchiometro, mi basta chiedere controlli, appena appena alzi, e certe volte raggiunge risultati ottimali, perché dovrebbe essere molto più fedele, come l'altro apparato dovrebbe essere. Vabbè, ma quello posso, Nicola, un attimino, quello lo potrei fare anche così, guarda se cambia, eh? Ecco qua, un po' forse è migliorato, credo, eh? Molto, molto, molto, adesso è molto più presente. Ma ti sei solo avvicinato al mic? No, per niente, ti ripeto, sto usando un più 5, quindi ho alzato il mix, ho alzato il volume dell'amplificazione. No, è buona, diciamo è come dovrebbe essere in FM, non troppo forte, che poi strappa, quindi va bene così già. Poi se l'FM c'è, anche gli amplificati da tavolo, se parli distante un po' tende a abbassarla, bisogna parlare vicino. Io poi soprattutto in FM prediligo i mic normali, è sempre più presente la modulazione. Sì, così è già buona, forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di aumentarla, forse sai quando è che va un po' in deficit, col mic originale, se usi l'originale come faccio io spesso, allora un po' va aumentata, ripeto, l'ottimale dovrebbe essere 2,1 kHz, massimo 2,2, lo fai fischiando, roba del genere, però ci vorrebbe lo strumentino, io quello l'avrei voluto. Come si chiama, un nome particolare, serve a misurare la deviazione FM, però non ne trovi, devi comprare strumenti che hanno un bel di audio, funzioni, li paghi un bel, non ne vale la pena. Io sono andato all'orecchiometro e è andata sempre bene, sì, va bene, adesso va bene, non so se devo abbassare quando vado in AM, no, qui magari mi dai conferma, perché tanto, vedi, adesso per dire, guarda se cambia ancora la modulazione, vediamo un pochino così, se è cambiato, adesso ho alzato anche un po' i watt. Ah sì, ho visto lievitare il segnale, è salito di mezzo punto S più o meno, qua non faccio affidamento, e la modulazione però è sempre buona, non mi sembra che abbia perso, anzi. Ho capito, no vabbè, qua posso alzare ancora di più, credo che non vada in perdita, però sono sempre i watt dell'apparato, sempre i watt dell'apparato, così credo che ci siano tutti. Eia, ma forse appena appena si abbassa, ma pochino, sì, quello dovrebbe dare un 30, forse 40 watt in FM, e sono utili quelli, per esempio, se in AM già non... In AM ne da 12, se non riesci a contattare bene un interlocutore in AM, passando in FM ne hai già 40 ed è, vabbè, fa che sia 10x4, 40, un Santiago in più che può aiutare. Eia. Bien, e quelle radio anche spesso si usano con pochi watt, io dico ma, vabbè, se ne ha 12, usano i 12, cioè, sono fatti anche per arrivare oltre, insomma. Eia, vabbè, lo passiamo, tanto poco cambia, adesso lo metto così, riproviamo in AM e vediamo se la modulazione l'ha cambiata, se no abbasso di 2 punti l'amplificazione microfonica. Prova. Ecco qua, questa era come era in FM, però qua si è troppo amplificata. Sì, adesso è molto amplificata, però parlassi pure dal mio volume, ogni tanto andavo a ritoccare tra un modo e l'altro, insomma. Allora, solo quando hai fatto la differenza tra i due apparati, dovrei aver lasciato il volume uguale, e Lincoln era già spettacolare il suo in FM. Almeno con questo baracchino, perché te l'ho detto, io metto 20 baracchini diversi, sia in AM che in FM, cioè 20 ricezioni diverse, e quindi insomma è molto indicativa la cosa, dai. sì, capisco, e vabbè, ognuno, quando fai orecchio apparato pedagogico che è così. No, mi chiedevo se l'amplificazione ora è troppo alta oppure va bene. No, dopo tutto va bene, io ho alzato il volume, cioè il volume qua è più alto del solito a cui lo uso, quindi dovrebbe andare bene. Ci vorrebbe un altro interlocutore per fare una prova, ma non entra nessuno qua. Aspetta, sono tutti con gli yacht, con gli aerei privati, capito? Con le amanti in giro per il mondo, beati loro. Vabbè, no, io oggi l'ho presa solo esclusivamente a puro riposo. Puro riposo perché ieri lavoravamo in giro con le macchine d'epoca, invitati in un matrimonio, quindi da Valentina a Fintino. Quindi ho già stato un pochino lì e tra l'altro ormai non faccio più niente perché anche oggi c'era un raduno, ma non siamo andati. Anche a me piacevano quelle cose lì, quando facevano raduni di macchine d'epoca, andavo a fare le foto, moto d'epoca. Poi quando ero giovane un paio di motoraduni li ho fatti, poi passano gli anni, se ne scende la voglia di tutto. Vabbè, chi più chi meno, ma io alla fine mi sono abbastanza demotivato, dai, alla fine. Sì, no, vabbè, io è che c'è questa opportunità qua, quindi andiamo, è che le seguo anche io. Quando ci sono mi invitano e quindi vado, prendo quello che passa al governo. Io per dire, ieri avevo la X19, rossa Ferrari, bella, macchina di una certa età, giustamente macchina d'epoca, perché sulla macchina d'epoca non è più 20 anni passa la macchina d'epoca, non funziona così, adesso ci vogliono 30 anni. 30? Se no sarebbe già d'epoca la macchina di famiglia, è del 2000, figurati. Però il motore non si vuole rompere, e anche se è brutta di carrozzeria, finché il motore dura non la cambiamo, non vedo il motivo di cambiarla. E così lo stesso la pensavo per le moto, finché non si spacca non chiede la cambio, cioè mi sembra di buttare la roba, cioè di sputare sulla povertà. Ah sì, la vediamo nella stessa linea d'onda siamo, perché anch'io sono così, io ti credi che ho una macchina di primo pelo, io l'ho presa la seconda mano, già con tanti chilometri, è un SUV, diciamo, un Land Rover, Freelander, ha già 300.000 chilometri, quindi l'unica cosa che ha è che non supera i 140, ma vabbè, per andare a lavorare già mi battono. Sono costretto anche io, io sono di quel parere lì, perché buttare, e poi ho anche un altro parere, la cosa che hai si cerca di trattarla meglio possibile per poterla utilizzare sempre di più, allora io la penso così, se poi fossi stato uno di quei ricconi che cambi la macchina ogni 3x2, allora è un'altra cosa, siccome non lo so, cerco di farmi durare la cosa il più possibile nel tempo. E infatti noi siamo così, non era così, insomma, la roba una volta andava consumata fino alla fine, finché durava, poi si cambiava. No, qualcuno magari chi può, magari non ricchi ricchi nemmeno, ma già c'è gente che si cambia la macchina per moda, perché è uscito, magari c'ha, che ne so, la Golf, esce il modello successivo di qualche anno dopo, no? E la cambiano per moda perché ostentare ormai è una moda, capito Tino? Sì, vabbè, beato chi possibile questa moda, io ho altre spese sul groppone che purtroppo non fa, se no anche a me sarebbe piaciuto avere cose sempre aggiornate, sempre migliori, ma vabbè, ci accontentiamo di quello che abbiamo, per carità, perlomeno io mi accontento di quello che ho. Cerco sempre di trattarla nel miglior modo possibile, poi giustamente una macchina da lavoro non può diventare un'accompagnatrice di sposi, quindi voglio dire, ce l'ho per lavoro, non la pulisco spesso e volentieri perché ogni tanto ci carichi o un sacchetto di colla o di cemento o quant'altro, quindi la uso per lavoro. Praticamente. Sì, insomma un po' certe volte un bici di famiglia, un po' le macchine tipo cantiere cantiere, c'è tutto quello che serve comprare, e poi anche se c'è gli scarponi fatti di fango, chi se ne frega, i tappetini tanto sono di gomma, se si devono lavare con l'acqua si lavano. No vabbè, conosco amici che hanno macchine però da usare tipo soprammobile, cioè che lì non puoi toccare nulla, che allora no, quello non è vivere la macchina, non è, chi la usa tutti i giorni lo sa, no, la macchina va sfruttata, va consumata, utilizzata, non è un salotto la macchina. Va bene, Tio, mi ero dimenticato che qua stanno aspettando il caffè freddo, ne approfitto. Va bene, vai a berti il caffè freddo bollente. Tranquillo, io invece mi faccio una birretta. Di chi era quella canzone, Caffè nero bollente, della Bertè? Un'altra fulminata, mi. Andare, adesso mi bevo un goccio di birra. Che ho un po' sete, forse questo condizionato mi sta cercando la gola. Sì, facciamo così, perché vabbè, il caffè è in te, non si sente perché non ce l'ho amplificato. Sì, vabbè, facciamo così, siccome non so se rientrerò per via dell'orario, devo anche preparare delle cose. Dai, tieniti salutato, ci sentiamo quando capita, io non è che stia entrando tanto perché siamo due gatti, prima eravamo quattro gatti, adesso siamo due gatti. Vabbè, l'estate, in ogni stagione c'è una scusa che non entra quasi nessuno e non ne hanno più voglia. Ne prendo atto, dai, quando si potrà, quando ci sarà un po' di più gente, magari lo vivremo più a pieno il baracchino. Ok Tino, buon proseguimento di serata, buon tutto, ci sentiamo nel prossimo, ok? Ciao, buona serata, ciao. Vabbè, ciao a tutti, ciao, ritieniti soprattutto anche tu, io sono solo, molto sicuramente faccio una berretta, esco fuori per non provare, vediamo un pochino. Alle prossimine, mi ha fatto piacere riascoltarti, ciao, saluta in casa, ciao ciao.